posso prendermi volentieri il piacere di presentarlo a chi non lo conoscesse. Massimo Donatini si occupa di cultura geografica veneziana del primo Cinquecento, ha studiato Ramusio, Benedetto Bordone e ha cominciato con una tesi sulle scoperte geografiche e è andato avanti sulla cultura geografica, quindi oggi ci racconterà i risultati di una ricerca in corso, alcuni risultati di una ricerca in corso. Anch'io posso adoperare. Posso? Sì. Allora, in primo luogo io desidero distribuire questi materiali che sono già fascicolati. Non credo che ce ne sarà per tutti, ma non volevo incidere oltre sulle finanze dell'istituto, per cui mi sono... No, questi no. Non ho invece provveduto a fotocopiare e a far distribuire quest'altra cosa, che però metto a disposizione e può circolare, che è sostanzialmente la base un pochino documentaria da cui sono partito. E cioè ho svolto un lavoro di catalogazione di tutti i testi editi in Italia tra 1490 e 1556, il termine 1556 è spiegato è motivato dalla edizione del terzo volume delle Navigazioni e Viaggi di Giovan Battista Ramusio, che ho scelto come termine di arrivo. E dunque ho registrato tutti i testi che parlano di altri mondi, i testi a cui è consegnata la conoscenza degli altri mondi, America, Asia, Africa e comunque ciò che sta al di fuori dell'Europa. È un catalogo che ho diviso in tre sezioni. Nella prima raccolto i testi americani, che sono una settantina di edizioni, 74 per l'esattezza. Poi c'è una seconda sezione che ho provvisoriamente intitolato Vecchio Mondo, in cui sono registrate 137 edizioni che riguardano Asia, Africa, paesi del nord, paesi dell'Oriente europeo, Sarmazia, eccetera. E infine il gruppo più consistente, che come c'era da attendersi riguarda i turchi, riguarda l'Oriente musulmano, sono 233 edizioni che ho raccolto e registrato. Io prego Adriano Prosperi di darmi quelle, perché sono rimasto senza averle distribuite. I numeri, lo schema che ho intitolato riepilogo contiene sostanzialmente i numeri di queste edizioni distribuite per i centri di stampa. Il totale è di circa 440 edizioni, ripeto, pubblicate in Italia tra 1490 e 1556. Un catalogo che, soprattutto per quanto riguarda i testi relativi a paesi africani, asiatici, i turchi, eccetera, probabilmente dovrà subire ancora degli aggiustamenti. Cioè, non ho la presunzione di avere censito tutto quello che c'era da censire. Ovviamente sarebbe una presunzione eccessiva. Il resto delle tabelle, delle tavole, lo commenteremo durante la lettura. Io do inizio a questa lettura premettendo che sarò lungo, me ne dispiace, ma chiedo la vostra comprensione e la vostra pazienza. Ecco un atteggiamento disincantato che Anton Francesco Doni descrive nel 1550 il mondo dei libri e degli autori di libri. Noi altri leggiamo nella sua libreria, edita per la prima volta in quell'anno, ci mettiamo innanzi una somma di libri nei quali ci sono dentro un diluvio di parole, e di quelle mescolanze ne facciamo dell'altre, così di tanti libri ne caviamo uno. Chi viene dietro piglia quegli e questi fatti di nuovo e ne forma un altro anfanamento. Così si volta questa ruota di parole sotto e sopra mille e mille volte per ora, pur non si esce dall'alfabeto. Si tratta ovviamente di un gioco retorico, dato che proprio quel suo libro si proponeva come guida, utile ad orientarsi nella selva ogni giorno più fitta dei prodotti editoriali. Tra le molte centinaia di titoli passati in rassegna non mancano quelli di argomento geografico, anfanamenti come gli altri, frutti dello stesso alfabeto. Pure il Doni mostra di apprezzare tal genere di letture. Coloro che scrivono i costumi degli altrui paesi e degli uomini, annota, mi fanno un grandissimo piacere per udir cose nuove e per far paragone delle leggi, quali siano le migliori. Un rapido esame consente di precisare i suoi orientamenti di scelta. Su una trentina di titoli, per l'esattezza 29, 12 riguardano il vicino Oriente, ma ben 11 di questi sono relativi ai turchi, l'altro è sulla Persia. Mentre altri 7 sono trattati di cosmografia o testi enciclopedici antichi e moderni. Molto meno numerosi i libri sulle Indie orientali, 3. Sulla Russia, 1. O di argomento generale, altri 3. Le Indie occidentali sembrano occupare un posto periferico negli orizzonti geografici del Doni. I 3 titoli che ho, non senza qualche perplessità, individuato a rappresentarle sono infatti l'Utopia di Tommaso Moro, che proprio il Doni aveva tradotto e pubblicato nel 1548, e altri 2 testi in cui l'America svolge un ruolo certo rilevante, ma non di protagonista: L'Isolario del Bordone e Il viaggio fatto dagli spagnoli attorno al mondo, edito anonimo nel 1536 sull'impresa di Magellano. È una lacuna vistosa, parzialmente colmata in successive edizioni dell'opera, in cui viene segnalata una navigazione alle Terre Nove in 3 volumi, certamente la raccolta ramusiana. Sarebbe imprudente assumere le proposte di lettura del Doni come sicuro indicatore di gusti e orientamenti del pubblico alla metà del Cinquecento. Né l'intenzione di questo eclettico, prolifico letterato dovette essere di fornire, attraverso una lunga e paziente documentazione, una bibliografia degnamente rappresentativa della coeva produzione a stampa. Ce lo conferma l'esilità del suo volumetto, ben poca cosa rispetto al poderoso infoglio della Bibliotheca Universalis di Konrad Gessner, pochi anni prima pubblicata a Zurigo. Ce lo conferma soprattutto il fatto che i titoli raccolti dal Doni fanno parte per la grande maggioranza dei recenti cataloghi veneziani. Per quanto concerne le opere geografiche che qui mi interessano, appena 5 risultano edite prima del 1540, ancora meno sono le edizioni non veneziane. Resta però che la libreria ebbe 5 edizioni in 30 anni, circolò dunque abbondantemente e poté quindi esercitare qualche influenza sulle scelte dei lettori. Resta ancora la forte sproporzione tra l'interesse per l'America e l'attenzione per il mondo ottomano. È un dato, quest'ultimo, che richiama alla mente la nota constatazione di Atkinson, secondo cui nella Francia del Rinascimento la massa di libri sui turchi superò del doppio quella delle pubblicazioni relative al Nuovo Mondo. E subito dopo viene fatto di ricordare quanto rilevato da John Eliot sui ritmi lenti dell'assimilazione culturale tra Europa e America e sull'interesse non travolgente, così Eliot, dei lettori europei per le nuove terre. Una valutazione meno casuale e impressionistica del grado di rilevanza occupato nell'editoria italiana dai libri sul Nuovo Mondo può provenire da un censimento delle opere dedicate a tale argomento apparse tra il 1493 e il 1556. Data di pubblicazione del terzo volume della raccolta ramusiana, come ho detto prima. Ogni operazione di schedatura è inevitabilmente legata a scelte, a loro volta correlate a rischi di arbitrarietà. Dichiarerò quindi subito il mio obiettivo e i criteri di selezione adottati. ho teso a identificare il gruppo di opere scritte e pubblicate per venire incontro a curiosità specifiche dei lettori italiani suscitate dalle imprese sul nuovo mondo. Per quanto limitate e socialmente poco diffuse, tali curiosità esistettero ai problemi geografici, antropologici, etico-religiosi suscitati dall'America e traducendosi in una domanda di informazioni soddisfatta in buona parte dalla stampa. Si tratta di curiosità e sensibilità riconducibili a stimoli di diversa origine. Un primo elemento che rappresenta la cornice in grado di legittimare e di conferire senso a questa avventura intellettuale è, a mio avviso, la riscoperta, avvenuta appunto nel 4-500, delle radici erodotee della cultura europea. Quel lontano, autorevolissimo modello giustificava l'esistenza di forme di conoscenza e di comprensione storica particolari, quelle legate al viaggio e alla letteratura che dai viaggi scaturisce. Certo, la presenza erodotea sembra spesso restare sullo sfondo, dato orientante, ma inavvertito, di un processo in cui, come ha scritto Arnaldo Momigliano, i modelli classici contavano molto meno dell'esperienza diretta e dei bisogni contemporanei. L'incontro tra queste diverse istanze, radici erodotee e bisogni contemporanei, fu tuttavia proficuo. Ne scaturì in primo luogo un pubblico di potenziali lettori, attratti dalla possibilità di mettere a paragone sulla carta e tra le pareti di casa la diversità stupefacente dei mores gentium e degli aspetti della natura. In secondo luogo ne risultò una produzione editoriale all'interno della quale i libri sull'America sono definibili come un sottogenere della letteratura di viaggio. In tale rivendicazione di autonomia si riflette la peculiarità della realtà descritta, un mondo nuovo sul quale, una volta tanto, le voci dei classici restavano mute e la cui descrizione e comprensione erano onore e onere dei contemporanei. Ne consegue che la scoperta intellettuale dell'America si compì, in buona parte e soprattutto nei primi decenni, per il tramite di materiali elaborati lontano dagli scrittori e degli studiosi, ad opera di mercanti, soldati, uomini di mare. Sono materiali spesso ripetitivi e frettolosi, i cui autori ed editori, con il frequente ricorso all'anonimato, sembrano consapevoli per primi dell'umiltà di un lavoro né raffinato né colto, rivolto a un uditorio ampio e diversificato. Tuttavia questa letteratura si qualifica nel tempo, definendo i propri modelli, le proprie forme espressive, i propri ambiti di intervento, in un processo di strutturazione che a metà del Cinquecento è già molto avanzato. Avendo mirato a identificare questa produzione, ho di conseguenza escluso dalla mia schedatura le opere cosmografiche moderne di carattere generale, come la cosmografia del Maurolico, B. le edizioni dei testi geografici classici come Tolomeo, C. le cronache e storie generali che pure dedicano qualche spazio al Nuovo Mondo, ad esempio il Supplementum Chronicarum di Jacopo Filippo Foresti da Bergamo o le storie di Marco Guazzo, D. la serie numerosissima di pubblicazioni sulla sifilide e relative terapie, e le altre opere in cui l'America è menzionata più o meno incidentalmente, come nel caso dei problemi naturali e morali del Galimberto. E infine ho escluso le carte geografiche. Atkinson, nel suo Le Nouveau Horizon de la Renaissance Française, non ha tenuto in considerazione le opere da lui classificate come fittizie, né quelle ritenute meri effetti delle notizie sulle scoperte, come ad esempio un'opera grossa come gli Essai di Montaigne. Il problema mi si è presentato a proposito di due titoli, uno dei quali è L'Utopia di Tommaso Moro. Non senza dubbi ho optato per un loro inserimento, ritenendo che i lettori di questo periodo non operassero nette distinzioni tra la fittizia Insula Nova di Tommaso Moro e le reali insule nuovamente scoperte che i titoli proponevano assiduamente. Un ulteriore problema ha riguardato opere indiscutibilmente legate al clima delle scoperte, ma in cui si tratta di aree geografiche molto disparate. Un esempio sono i paesi nuovamente retrovati del 1507, in cui l'India portoghese ha un rilievo certo non inferiore al Nuovo Mondo. Schedando anche queste opere come americane e altre, oltre ai paesi, ho seguito una vecchia e rassicurante tradizione, ma mi preme avvertire che rappresentano una percentuale non piccola del totale, circa il 30%. Ovviamente, in base a queste coordinate, risulta ampiamente premiata la letteratura di viaggio. Ciò non significa, ben inteso, mi preme sottolinearlo, che io ritenga irrilevanti, ad esempio, le sezioni dedicate al Mondo Nuovo dal Supplementum Chronicarum o dal Garimberto. Sono anzi del parere che questi e altri libri ebbero un loro ruolo, a volte molto rilevante, nella lenta elaborazione ed evoluzione delle immagini mentali di cui, per la maggior parte dei lettori europei, si sostanziò per secoli l'America. Più semplicemente il problema di una loro valutazione non è affrontabile, credo, in termini quantitativi. La schedatura ha isolato 74 opere distribuite nei 64 anni considerati, il che significa una media annua di pubblicazioni, libri o opuscoli, di poco superiore all'unità, 1,15 per anno. Può apparire un dato limitato, ma si tenga conto a titolo di raffronto che le opere sul Nuovo Mondo catalogate da Atkinson per la Francia di questi stessi anni sono appena 27. Una distribuzione di tali opere in base al luogo di stampa, come nella tavola 1, sottolinea la prevalenza del centro editoriale veneziano. Qui sono nate 32 edizioni, pari al 43,2%. Segue Roma con il 28,3%, pari a 21 edizioni, e poi Firenze, Milano, Bologna, Brescia, Pavia e Vicenza, con una produzione sempre minore. Si può fare un calcolo, accorpare i dati relativi ai centri appartenenti allo Stato Veneto, e cioè Vicenza, Venezia e Brescia, che hanno queste ultime una edizione ciascuna. Lo Stato Veneto produce da solo il 46% del totale dei libri sull'America circolanti in Italia in questo periodo. Tali dati, pur se consentono di evidenziare la gerarchia dei centri editoriali, non possono certo tradursi meccanicamente nella valutazione del rispettivo interesse per le notizie americane. In altri termini, la distribuzione si limita a riflettere la ben nota supremazia delle stamperie veneziane. Semmai sono le assenze a meritare maggiore attenzione. Tra 1493 e 1556 il 93% dei libri sul Nuovo Mondo proviene dalle quattro principali città italiane, sintomo di un interesse tendenzialmente circoscritto. Nessuna opera giunge da centri situati a sud di Roma, e tale silenzio proseguirà fino al 1572, quando a Napoli si stampa una Epistola Patrum Lusitanorum Societatis Iesu, che tra l'altro non è un'opera di interesse prevalentemente geografico, ma è un'opera che narra il martirio di missionari che stanno in America, dunque con un'accentuazione dell'interesse verso altre aree. Nessuna opera esce dalle stamperie genovesi, nonostante l'interesse del ceto dirigente di quella città per le imprese spagnole. Un parametro utile a precisare il profilo complessivo di tale produzione è il rapporto tra prime edizioni e riedizioni, come lo si vede nella tavola numero 2, dove per riedizioni intendo edizioni successive di un testo precedentemente edito sempre in Italia. Ecco, qui mi interessa sottolineare il fatto che mentre questo rapporto tra edizioni, tra prime edizioni e riedizioni è paritario nei primi 32 anni, cioè dal 1493 al 1524, è sostanzialmente paritario, successivamente E nel secondo periodo, dal 25 al 56, le prime edizioni aumentano in percentuale rispetto agli altri testi, vanno a coprire circa il 63% del totale. Dunque c'è nella seconda parte di questo periodo un maggior interesse a fornire delle notizie diversificate, una maggiore originalità dei testi presentati. La tavola 3 prende invece in esame il gruppo delle prime edizioni apparse in Italia, cioè quelle che nella tavola 2 erano in nero. Ecco, su questo gruppo delle prime edizioni apparse in Italia ho individuato quelle che sono state pubblicate in Italia in assoluto per la prima volta e sono nere. Quelle bianche sono i testi editi in Italia che però erano già stati editi precedentemente in qualche altro paese europeo, dunque testi in qualche modo importati in Italia. Anche qui si individua una dinamica abbastanza chiara che è di nuovo più netta nella seconda metà del periodo, una dinamica che privilegia l'originalità dei testi proposti ai lettori. Tra 1525 e 1556 vengono pubblicati 18 nuovi titoli contro 8 importati. Se ne può desumere una buona autonomia dell'editoria italiana nel reperimento dei materiali da pubblicare. La scelta linguistica, e dunque il rapporto tra latino e volgare, è ovviamente un dato di primaria importanza, soprattutto se si considera la fascia cronologica oggetto di queste note. La tavola 4 consente di percepire visivamente la decisa supremazia dei testi editi in volgare. Sono 56, pari al 75,7%, contro 18 latini, appena il 24,3%. Si tratta di un dominio che il volgere del tempo scandisce anche qui in maniera più netta. La percentuale dei testi in latino passa infatti dal 33,3% del periodo 1493-1524, lo si vede nella tavola 5, al 17,1% del periodo 1525-1556. Anche questo è tuttavia un dato già noto, estensibile in una certa misura al complesso della letteratura odeporica di questi anni. Il ricorso al volgare sarà stato innanzitutto giustificato da opportunità economiche. Molte di queste edizioni si rivolgono a un pubblico ignaro di latino. Tuttavia la sconfitta del modulo linguistico alto deve essere maturata, a mio avviso, a monte dell'esito editoriale, proprio sul terreno delle potenzialità espressive. Qui per il latino hanno avuto peso negativo l'aderenza a modelli retorici e linguistici codificati, la minore flessibilità, la minore possibilità di invenzione, grossi ostacoli per chi intendeva rendere comprensibile la realtà di mondi e genti inusitati. Del resto, la preminenza del volgare ben si coniuga ad un'altra caratteristica, essa pure già nota, di tale editoria, che si risolve di frequente in opuscoli di occasione e di poche carte, stampati per soddisfare curiosità intense ma di breve durata, libri da bisaccia rivolti a un pubblico vasto e popolare. È una produzione alimentata da notizie che rimbalzano in Europa da luoghi spesso lontani, assumendo nel tragitto proporzioni e significati ben diversi dagli originari, finendo per modellarsi su aspettative tradizionali per l'Europa della prima età moderna. Tra i soggetti preferiti, oltre alle sanguinose e per lo più immaginarie stragi di eserciti turcheschi, sono anche le scoperte e i favolosi tesori che ne costituiscono l'atteso coronamento. Nella tavola 6 e nelle sottotavole, non so come chiamarle, 6A, 6D, ho raggruppato le edizioni sul Nuovo Mondo in base appunto alla loro consistenza, cioè il numero di pagine di cui queste sono composte, dividendole in quattro categorie, fino a 10 carte, da 11 a 30, fino a 100 e oltre 100 carte, supponendo dei pubblici potenzialmente diversi per ciascuna di queste categorie. I testi di poche carte, come è lecito attendersi, dominano la scena. Più degno di nota è il fatto che, dividendo il periodo considerato, il periodo intero a metà, si nota una progressiva inversione di tendenza. La percentuale dei testi d'occasione diminuisce, anche se restano i più numerosi. Per converso aumentano sensibilmente i testi più corposi, di norma assai più ricchi di dati nella documentazione delle nuove realtà, oltre che portatori di schemi concettuali in cui questi dati vanno inseriti. Negli ultimi 16 anni poi, cioè dal 1541 al 1556, la tendenza si accentua ulteriormente al punto da far registrare il prevalere dei testi più massicci. Nell'ultimo periodo, dal 41 al 56, il 56% dei testi pubblicati è rappresentato da grossi tomi, che, oltre alle navigazioni e viaggi, sono le opere degli storici spagnoli, sono le lettere dei gesuiti. Mi preme sottolineare il fatto che questa tendenza non si conclude con il 56, ma si prolunga nel corso della seconda metà del secolo, dunque è particolarmente significativa, ma tornerò sopra questo fatto. Dunque c'è stata una progressiva modificazione delle offerte editoriali, ma anche della domanda del pubblico. Ciò risulta evidente se si esamina parallelamente la tavola 4, già vista in precedenza. In questa tavola, al numero 4, l'andamento delle linee registra il succedersi nel tempo di fasi ben distinte, ciascuna delle quali contrassegnata da un'esplosione di interesse seguita da un lento assestamento. Cioè ci sono come delle isole, no? All'inizio, poi un'altra negli anni tra il 1500 e il 1509, poi tra il 17 e il 28, poi tra il 33 e il 40. È possibile, senza eccessive forzature, collegare ognuna di queste fasi ai principali capitoli dell'impatto tra Europa e America, nella successione in cui si presentarono ai lettori europei. Prima Colombo, e poi Vespucci, le notizie sullo Yucatan, e quindi prima che si spenga l'eco di queste ultime, le notizie sul Messico, frammiste allo stupore per la circumnavigazione del mondo, per finire con il Perù, appunto dal 33 al 41. Ma in coincidenza con la fine dell'epopea, verso la fine degli anni 30, sembra potersi collocare una cesura significativa, e cioè gli ultimi anni dal 45 in poi. La dinamica muta. Agli sbalzi violenti, ma episodici, dell'attenzione si sostituisce un'onda più calma, soprattutto più continua dal momento che si estende ben addentro il periodo successivo, la seconda metà del secolo. Questa fase terminale è contrassegnata appunto dall'infittirsi, documentato nella tavola 6, di testi corposi, massicci, le cui coordinate culturali risultano di gran lunga più complesse delle brevi notizie fornite dagli opuscoli. Si avverte, questa è la sensazione, si avverte il bisogno di una più meditata considerazione delle cose, a partire dalla Siloge Ramusiana, dalle lettere gesuitiche, dalle traduzioni italiane di numerose opere storiche spagnole. Che poi si tratti di una produzione pesantemente orientata e filtrata in senso filo spagnolo, questo è certo, ma è altrettanto certo, credo, che i lettori possono ora disporre di testi di inedita profondità e ricchezza di documentazione. Tale modificazione del panorama editoriale suggerisce un interrogativo, che mi pare di qualche rilievo, sul piano socioculturale. In che misura il progressivo venir meno di un'editoria a basso costo e a larga diffusione ha comportato per i ceti popolari minori possibilità di informazione sul nuovo mondo? Tali minori opportunità sono state aggirate facendo ricorso a testi d'altro genere? Viene naturale ricordare che questo è precisamente il caso di Domenico Scandella, che trasse le proprie conoscenze sui nuovi mondi proprio dal Supplementum Chronicarum del Foresti, menzionato poco fa. Infine le tavole 7, 8 e 9 scompongono, queste ultime, il quadro complessivo fornito dalla tavola 2, consentendo di seguire cronologicamente l'attività editoriale nei principali centri. Venezia, nella tavola di Venezia ho anche inserito l'unica edizione vicentina che mi pare, come dire, far parte di una di uno stesso processo. Poi Firenze, Bologna e Milano e Roma. La tavola relativa a Firenze, Bologna e Milano è poco leggibile, me ne scuso, ma purtroppo è così. Esse forniscono altresì evidenza grafica alla dinamica locale tra opere volgari e opere latine. A Venezia l'interesse dell'editoria per le scoperte americane pare essere decollato tardivamente. Nel 1504-1505 avviene quella che potrebbe definirsi una falsa partenza, affidata però a testi originali, diffusi in esclusiva dall'editoria veneziana e basati su fonti di informazione importanti. Si tratta della cosiddetta lettera rarissima, così la battezzò Jacopo Morelli, bibliotecario di San Marco, quando la scoprì all'inizio dell'Ottocento, che è relativa al quarto viaggio di Colombo, e poi dal libretto di tutta la navigazione del re di Spagna. Prima e dopo, queste date, lunghi periodi di silenzio, forse di disinteresse, forse di ritardo nell'acquisizione di materiali da pubblicare. A spiegare l'una e l'altra varranno da un lato le preoccupazioni vivissime tra fine 4 e inizio 500 per quanto accadeva ad altre latitudini ad opera dei portoghesi. Dall'altro la crisi della guerra di Cambrai, le cui ripercussioni sull'editoria sono ben note. L'effetto più marcato di tali silenzi è certamente la limitata e tardiva ricezione da parte dell'editoria veneziana delle imprese colombiane. A Venezia si pubblicano testi sul grande genovese quando, altrove, l'editoria ha già decretato il successo di Vespucci. Si tratti o meno di una coincidenza, tali ritardi e lentezze svaniscono con il ritorno della tranquillità politica. La ripresa di interesse per il Nuovo Mondo data al 1517, con la prima edizione veneziana, in forte ritardo, di un'importante raccolta di viaggi, i paesi nuovamente ritrovati. Il risvegliarsi dell'attenzione negli anni venti coincide con un brusco mutamento negli scenari della conquista. In luogo di selvaggi nudi e mansueti, i lettori veneziani si vedono presentare i templi di pietra dei messicani e la stupefacente immagine di una grande città costruita sull'acqua, quella immagine di Città del Messico, di Tenochtitlan, che avete visto fra l'altro durante la relazione della Milanesi, era quella che apriva le sue immagini. Dopo di allora, pur con qualche pausa, le stamperie veneziane non hanno più trascurato i testi sull'America, producendo 19 edizioni negli ultimi 23 anni. L'impennata che si registra nel 1534 è una splendida prova di vitalità. Le edizioni veneziane di quell'anno, 6, eguagliano in quantità quelle apparse in Italia nel 93, al ritorno di Colombo dal primo viaggio, cioè il momento di maggiore diffusione della sorpresa, dell'entusiasmo. Ma nel 1534 i titoli usciti a Venezia coprono un arco di temi molto più vario e ricco, sintomo di un interesse vivace e al contempo sufficientemente articolato da non bruciarsi in breve tempo. Ben tre delle edizioni di quell'anno danno eco alla grande novità del Perù e delle sue ricchezze, ma assieme ad esse si stampa una lettera dal Messico del minorita Francesco da Bologna. Quindi un'importante raccolta, il sommario della generale storia delle Indie occidentali, che mette a disposizione del pubblico gli scritti di Pietro Martire e dell'Ovieto. Chiude la serie Benedetto Bordone, che approfitta del momento favorevole per stampare una seconda edizione del suo isolario, aggiungendovi a mo' di esca per i possibili acquirenti un breve scritto sul Perù. Mi preme infine sottolineare la scarsità di opere latine edite a Venezia. Appena il 9,3% del totale, dunque una percentuale assai inferiore ai valori medi indicati nella tavola 5. È probabile che a rafforzare la tendenza generale all'uso del modulo volgare abbia contribuito a Venezia il tardivo interesse degli editori per le cose americane e il conseguente spostamento di tale produzione verso anni in cui l'uso del volgare si fa ovunque meno problematico. Comunque, in una produzione copiosa come quella veneziana, l'univocità del dato mi pare rilevante. In essa Si riflettono scelte e orientamenti editoriali e dei lettori molto precisi, tali da costituire un elemento condizionante anche per quanti, come il Ramusio e il suo editore, si accingevano a un'impresa di qualità, mole e ambizione di gran lunga superiori a quanto era stato realizzato in quel settore fino ad allora e che avrebbe potuto adottare un modulo espressivo più consueto per le opere scientifiche, cioè il latino. La tendenza veneziana si ripete assai meno marcata a Milano e a Firenze, nella tavola 9, con un'edizione latina per ciascuna. Per il resto, la limitata produzione americana dei due centri è ampiamente all'insegna della episodicità. E stesso discorso lo si può fare per Bologna. Qui la fine della fase più movimentata delle scoperte e delle conquiste si traduce sostanzialmente nel silenzio delle stamperie, che prosegue sostanzialmente inalterato anche nella seconda metà del secolo. Da registrare anche una maggiore rigidità dell'offerta di informazioni. Delle edizioni milanesi, ben quattro hanno per oggetto i paesi nuovamente ritrovati, oculatamente sfruttati dall'impresa editoriale degli Schinzenzeler. Tuttavia, il livello qualitativo della produzione milanese, oltre ai paesi, si pubblicano la seconda edizione, relazione del Cortés, e il libro di Francisco Jerez sul Perù. Il livello qualitativo della produzione milanese, dicevo, è superiore a quello di Firenze, dove dominano le edizioni di poche carte, 8 su un totale di 10. La situazione romana è molto peculiare, certo in ragione di una forte componente ecclesiastica presente tra i lettori. Ciò spiega, a mio avviso, la preminenza dei testi in latino, fino al quarto decennio del Cinquecento, e così pure la presenza di testi fortemente segnati da preoccupazioni etico-religiose, come la lettera del vescovo di Tlaxcala, Julian Garcés, sulle genti del mondo nuovo. Anche a Roma, come a Venezia, gli interessi americani si condensano, verso la fine del periodo in esame, in una produzione di buon livello qualitativo destinata peraltro a prolungarsi, arricchendosi ulteriormente nei decenni successivi. È da sottolineare il dato che queste opere romane dell'ultimo decennio provengono quasi tutte dalla stamperia di Valerio e Luigi Dorici. E dunque c'è un editore che si fa promotore in qualche modo della diffusione di notizie sul mondo nuovo. I dati forniti fino ad ora, basta con le tabelle, si assommano e si compongono in un quadro non privo di contraddizioni, difficile da decifrare e da riassumere in brevi formule. Non si può non rimarcare la scarsa diffusione complessiva di tale produzione, così concentrata in pochi grandi centri. Dopo il 1507 i testi sull'America saranno pubblicati solo a Venezia, Milano, Firenze, Roma e Bologna. E il caso di Bologna è un caso abbastanza peculiare, nel senso che sono due edizioni. Una di queste ha carattere, secondo me, molto localistico, cioè si ripubblica un testo di un bolognese, Francesco degli Allè, frate minorita che era stato in Messico. L'altra edizione è in realtà solo parzialmente americana, è una breve scritto di Giovanni Antonio Flaminio, breve scritto che dà conto di una lettera di un altro frate, Michele della Porretta, pure egli in Messico, ma è all'interno di un opuscolo che contiene altri tre scritti che sono che riguardano i turchi, e i turchi sono l'oggetto principale dell'attenzione di Giovanni Antonio Flaminio. Mi pare tuttavia di poter dire che questo quadro è attraversato da spinte dinamiche, in virtù delle quali editori e lettori sono portati a privilegiare in modo crescente la varietà e originalità dell'offerta. Ciò, come si è detto, finisce per avere ripercussioni positive non solo sul piano quantitativo, ma altresì su quello qualitativo. D'altronde è una tendenza operante soprattutto negli ultimi anni del periodo esaminato. Essa si accompagna altresì ad un probabile restringimento del pubblico dei lettori che privilegia i ceti più elevati. Un ultimo elemento di giudizio, che credo confermi quanto detto, è ricavabile da un tentativo di valutazione del successo di questi libri, a partire da due parametri. il numero di edizioni avute da ogni singolo titolo e il numero di anni in cui queste edizioni si distribuiscono. Più a lungo un libro è stato in vita, maggiori saranno state le sue possibilità di sedimentazione e di trasmissione. L'elenco che ne risulta è il seguente. I paesi nuovamente ritrovati sono stati pubblicati 7 volte in 15 anni. Giuliano Dati, la storia della invenzione delle 10 isole, insule di Canaria indiane, di cui si è parlato anche stamattina, 6 edizioni in 8 anni. Massimiliano Transilvano, De Moluccis Insulis Epistula, sull'impresa di Magellano, 4 edizioni in 20 anni. Benedetto Bordone, Isolario, 4 edizioni in 20 anni. Infine, un caso particolare che ha bisogno di qualche spiegazione, la relazione di Juan Díaz sullo Yucatan, che viene pubblicata 2 volte da sola e altre 5 volte come appendice al bellissimo itinerario di Ludovico Vartema. Le edizioni di questa coppia di testi si collocano tra 1520 e 1550, ma non credo di sbagliare nel sostenere che tale forte successo sia da attribuirsi soprattutto allo scritto del viaggiatore bolognese, che però riguarda Africa e Asia e non l'America. Non è mia intenzione stabilire gerarchie in questo piccolo elenco. Mi limito a registrare 2 cose. La prima è che un solo titolo è, tra quelli che ho citato, esclusivamente dedicato al mondo americano. Si tratta dell'operetta del vescovo di San Leone, Giuliano Dati, che parafrasò in zoppicanti ottave la prima lettera di Colombo. Per il resto, testi di valore disuguale, ma concordi nel dispiegare la propria attenzione su scenari molto più ampi dell'America, che occupa solo una parte di queste trattazioni. Seconda e ultima cosa, 2 testi su 5, l'Isolario del Bordone e di nuovo l'opera di Giuliano Dati, danno voce a schemi mentali pesantemente condizionati dal passato. Si tratta di testi a cui il trauma culturale indotto dalle scoperte resta nella sostanza estraneo. La loro geografia approssimativa, fatta di mirabilia, pare in grado di metabolizzarle senza sforzi particolari, appunto rubricandole alla stessa stregua, mirabilia appunto. Il successo di tali testi conferma ulteriormente la coesistenza di livelli informativi e interpretativi assai diversamente orientati. Gli effetti di tale stato di cose negli atteggiamenti culturali dei lettori, ovviamente non solo italiani, sono comprensibilmente molteplici e di rilievo, ma mi sia sufficiente l'avervi accennato. Un'indagine limitata ai libri di argomento americano presterebbe inevitabilmente il fianco a critiche. La valutazione complessiva di questa produzione, quindi anche della circolazione di notizie sul Nuovo Mondo, è verosimilmente da collocarsi in una più ampia prospettiva. Non è un caso, credo, che i testi poco fa indicati come i più letti nella prima metà del Cinquecento siano per la maggior parte attenti, più che al Nuovo Mondo, ai nuovi mondi, al plurale. Durante il Rinascimento gli europei hanno dovuto sintonizzare la propria cultura e i propri atteggiamenti mentali su di una molteplicità di dimensioni solo in parte del tutto inedite. In molti casi si è trattato di confrontarsi con inaspettati scenari che uno sguardo più ravvicinato individuava in luoghi del mondo, della storia, dell'animo che si credeva già di conoscere. Se la geografia del Rinascimento è all'insegna del molteplice e del plurale, occorrerà considerare, accanto alla produzione dedicata all'America, gli altri testi geografici pubblicati nello stesso periodo, il che comporta un lungo lavoro di verifica per passare in rassegna l'ampia produzione, spesso di carattere minore, a cui i lettori si affidarono per soddisfare curiosità vecchie e nuove. Il risultato raggiunto è, ne sono consapevole, provvisorio e incompleto. Un censimento esauriente di queste tipologie di opere porterà altro lavoro. Ad ogni modo ritengo che le 370 schede raccolte finora, oltre in aggiunta a quelle americane, rappresentino un punto di partenza accettabile, quantomeno per lo scopo limitato di istituire un confronto con i libri appunto di cose americane. Anche in questa schedatura ho tenuto conto dei testi di invenzione, a differenza di Atkinson. Credo sia incontestabile che per gli europei dal XIII secolo in poi le principali fonti di informazioni sull'Oriente hanno incluso il libro di Marco Polo e quello di Mandeville, considerati entrambi reali o irreali, veritieri o mendaci, a seconda degli uomini e delle stagioni. Ad entrambi arrise il successo editoriale, che nel caso dei viaggi immaginari e della geografia fantastica di Mandeville assume piuttosto le dimensioni di un trionfo. 18 edizioni tra 1491 e 1556. Come non tenerne conto? Ciò premesso, nel valutare questa produzione mi limiterò a pochi elementi, anche perché il quadro generale non si discosta da quello delineato per la Francia da Atkinson, manifestando anzi nelle sue linee essenziali una buona consonanza con le gerarchie emergenti dalle proposte di lettura formulate da Anton Francesco Doni. Va registrata innanzitutto l'impressione che nell'editoria italiana del primo Cinquecento si manifesti una certa difficoltà a far proprio l'allargamento di prospettive conseguente all'espansione europea. È difficile allontanarsi da abitudini di lettura tradizionali, saldamente radicate, che condizionano pesantemente la produzione libraria. Questo mi pare il senso attribuibile alla marea di edizioni di svariata natura e qualità dedicate al mondo ottomano. Da sole superano il 50% di tutte le schede raccolte, ivi compreso quelle di argomento americano. Sono 233 opere sui turchi, insomma, in questo periodo, una quantità debordante. Ciò detto, occorre però tenere nella dovuta considerazione il manifestarsi di una sensibilità nuova, che documenta il desiderio, se non altro, di allargare e considerevolmente l'arco di orizzonte su cui esercitare l'attenzione. Si tratta di una tendenza minoritaria, ricollegabile alle scelte di una ristretta elite intellettuale, peraltro documentabile con maggiore evidenza nella seconda parte del periodo considerato, cioè dopo il 1525. Ma è un fatto che il bisogno di nuove informazioni si esercita ora, in questo periodo, anche in direzione di genti e paesi fino ad allora marginali nella cultura europea. Mondi poco meno nuovi che l'America, come l'immensa Sarmazia e le distese fredde e inospitali del nord. Delle terre settentrionali e della Moscovia, oltre che dei turchi, si interessa ad esempio Paolo Giovio, così poco attratto per converso dal mondo americano. Un intellettuale cosmopolita e molto legato all'Italia, Damiano de Goisch, scrive, mosso da forti preoccupazioni religiose, una deploratio lappiane gentis, inviandola poi ad Erasmo e premendo affinché il grande umanista impegni la propria autorità in favore dei lapponi, genti, scrive Damiano de Goisch, simplices et innocentes, tanto simplices e innocentes che credendum est illos ad Christi evangelium accipiendum facile posse indugi. Espressioni queste non molto lontane da altre leggibili nei primi resoconti dal Nuovo Mondo. Damiano de Goisch è anche in stretti rapporti con Johann Magnus, vescovo di Uppsala, e suo fratello Olaf, cacciati verso Roma dai successi della riforma protestante. A Venezia, in una situazione di indigenza, in attesa di un concilio che sembra non arrivare mai, e poi a Roma, i due fratelli pongono mano a quello che è forse un progetto unitario. Mentre Johann si dedica a narrare la storia delle genti settentrionali, Olaf le descrive in una grande carta geografica e poi in un vasto lavoro cosmografico. Pur se disuguali nei risultati, queste opere rappresentano, dalla metà del secolo, una indispensabile fonte di informazioni sui paesi del nord. L'Africa sembra ancora più lontana, con l'unica ovvia eccezione della costiera mediterranea, percepita però come propaggine del minaccioso Moloch turco. Oltre che la frontiera, stanno i regni dei negri, verso cui stenta ad affermarsi qualche interesse editoriale. se non per il testo di Alvise D'Amosto, stampato nei paesi nuovamente ritrovati, oltre che da solo in una riedizione del 1515. Su quelle terre può continuare ad esercitarsi il potere di suggestione di vecchie leggende. Ancora nel 1493, il solito Giuliano Dati aveva condensato nelle consuete brutte ottave quanto sapeva del favoloso protagonista di una vecchia diffusa leggenda, il prete Gianni. A 40 anni di distanza, la leggenda prendeva aspetto e dimensioni ben definite. Nel 1533, un chierico portoghese, Francisco Alvarez, veniva ricevuto da Papa Clemente VII, a Bologna per incontrare Carlo V, come ambasciatore del vero e reale prete Gianni, che assumeva in quell'occasione i contorni più reali del re copto d'Abissinia. L'avvenimento non è di grossa rilevanza politica, ma il retroterra culturale, appunto la storia del prete Gianni e la diffusione che questa aveva avuto in Europa, predispose editori e pubblico ad un soprassalto d'attenzione, testimoniato dai due opuscoli, l'uno in volgare e l'altro in latino, pubblicati più volte per documentare la vicenda. Alle origini di un più meditato approccio all'interno dell'Africa è ancora una volta Damiano di Goisch, con il suo desiderio di conoscenza sorretto da forti sollecitudini religiose. È probabilmente dall'inquieto portoghese che Giambattista Ramusio ottenne una delle più belle e corpose relazioni apparse nel primo volume delle Navigazioni, quella appunto di Francisco Alvarez. Nella sua caccia ai migliori materiali sul grande continente, il Ramusio non tralasciò poi un testo ampio e di grande valore, anche se limitato alla porzione sahariana, dovuto a un dotto granadino, noto in Italia come Giovanni Leone Africano. Egli scrisse la sua descrizione dell'Africa a Roma, dove visse a lungo, trattato come prigioniero di riguardo, da personaggi come Alberto Pio da Carpi, per il quale tradusse codici, ed Egidio da Viterbo, a cui insegnò l'arabo. Mi pare tuttavia sintomatico di un interesse contenuto per questo tipo, per quest'opera, il fatto che la descrizione dell'Africa, certamente già terminata nel 1526, abbia circolato per decenni in Italia e fuori d'Italia. Certamente, ad esempio, la conosceva Jacob Ziegler, un geografo di Landau, che in una sua opera edita nel 1532 nomina, usa, diciamo, la descrizione dell'Africa come fonte a cui riferirsi per stabilire la posizione di alcune città africane. E comunque quest'opera circola per decenni in Italia e fuori d'Italia senza trovare editori. Occorrerà aspettare appunto il Ramusio, che la inserisce nel primo volume delle Navigazioni nel 1550. Appena lo sguardo si volge ad est, ad oriente, il panorama editoriale rivela ben diversa animazione. Al lavoro nascosto di qualche studioso in cerca di nuove tracce si sostituisce una produzione ricca e vivace. Le sottili trame degli scambi intellettuali sono sommerse dalla ridda di notizie, avvisi, libri su di un oriente allettante e minaccioso, di cui mai come in questo periodo la cristianità ha percepito la concretezza, l'ingombrante e molteplice realtà. I lettori della prima metà del secolo hanno a disposizione materiali disparati. Il patrimonio delle conoscenze è vasto, ma spesso incerto. Vecchie e nuove fonti di informazione non sono facili da sintonizzare tra di loro. Così, tradizioni consolidate e nuove prospettive concorrono a dar vita ad una produzione molto articolata. Vi sono rappresentati generi letterari che vantano un illustre passato, come i resoconti dei pellegrinaggi in Terra Santa, accanto alle relazioni di viaggiatori contemporanei, da Corsali a Vartema. I libri di viaggio di francescani come Odorico di Pordenone e quelli di mercanti di Marco Polo escono dai torchi al pari delle brevi informazioni ufficiali inviate dai re portoghesi ai pontefici, le sole che la gelosa cancelleria lusitana è disposta a cedere. Particolarmente copiose tra 1506 e 1513, fase calda dell'espansione portoghese in Oceano Indiano, Tali epistole brevi e generiche hanno tuttavia determinato una vertibile trasformazione dell'offerta editoriale. Se il libro di Mandeville, libro delle più meravigliose cose che si trovano in le parti del mondo, vede ridurre le sue edizioni da 13 del periodo 1490-1505 a una sola nei 15 anni successivi. In tutto, fino al 1556, le edizioni di Mandeville sono solo 5, no? Dunque è squilibrata questa produzione di opere di Mandeville verso i primi 15 anni di questo periodo. È una constatazione che probabilmente può essere estesa al complesso delle vecchie fonti. Il gusto dei lettori pare assai più sollecitato da testi come quello del Vartema, 8 edizioni, a cui sono da aggiungere le 5 che ho già contato come americane, in cui c'è cioè la relazione di Juan Díaz. Oppure dalle relazioni scritte dagli ambasciatori veneziani in Persia a fine 400, riproposte più volte da Sole o in lavori miscellanei. Sembra dunque che la presa di contatto politica e militare con queste regioni abbia avuto in pochi decenni una traduzione sensibile nei gusti del pubblico. Testi come quelli che ho citato poco fa, le relazioni degli ambasciatori veneziani in Persia, consentono più di una lettura. Se la loro fruibilità etnogeografica è indiscutibile, non si dimenticherà per altro verso che i lettori contemporanei avevano ben presente il contesto all'interno del quale essi erano nati da parte di Venezia per la lotta contro i turchi. Insomma, in molti casi, tra cui vanno annoverate le epistole dei sovrani portoghesi e anche le lettere gesuitiche, si è tentati di imputare alla letteratura di viaggio una funzione indiretta di rassicurazione del pubblico, reso edotto non solo dell'imprevedibile allargamento dei confini del mondo, ma anche dei successi conseguiti in esso dagli stati europei e dalla Chiesa cattolica. Nell'Europa accerchiata e soffocata dall'Islam, ciò non poteva non essere interpretato come segnale positivo. La presenza ossessiva dei turchi nella pubblicistica dell'Europa cinquecentesca è percepibile fin dalla mole del ricchissimo repertorio che Karl Göllner ha dedicato all'argomento. Neppure esso, peraltro, è esaustivo. Per fare un esempio, un controllo sulle collezioni della British Library consente di rilevarvi delle lacune. Tra l'uno e l'altra, tra il Göllner e appunto la British Library, il raccolto è comunque abbondante. 230 edizioni tra 1490 e 1556, almeno finora. Si tratta per la massima parte di una produzione a carattere popolare e ad ampia diffusione. Essa copre da sola più della metà dei titoli, è rigorosamente in volgare e segue da presso le vicende della cronaca politica. I momenti di tensione tra Impero Ottomano e Stati europei si traducono quindi nella ricca fioritura di edizioni diverse, spesso solo all'apparenza, date in pasto alla preoccupata curiosità dei lettori. L'assedio e la presa di Rodi, l'assedio di Vienna, l'impresa di Tunisi, le vicende di Andrea Doria entrano in tal modo nella vita e nei pensieri dell'Occidente. Altre stampe, rifuggendo invece dalla cronaca degli avvenimenti, ne intessono una affatto peculiare, fatta di proiezioni irreali ma coincidenti con le generali aspettative. È il caso degli avvisi delle cose occorse nuovamente a Costantinopoli, cioè delle locuste che hanno consumato tutto il raccolto degli grani intorno a Costantinopoli, circa 20 miglia, della cometa quale per 40 giorni continui si è vista sopra il palagio, del dragone che ha consumato il tesoro del Gran Turco, degli troni, venti, saete e tempeste, insomma. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma sarebbe inutile. Questa abbondante e ripetitiva produzione appiattita sulla superficie degli avvenimenti non propone approfondimenti di prospettiva sull'oggetto dell'indagine. Ho distinto le rimanenti edizioni in due gruppi, uno rappresentato dalle opere latine, considerate nel loro insieme senza riguardo all'ampiezza, l'altro dai lavori in volgare di una certa consistenza, dunque diversi da quella produzione popolare di cui ho detto prima. Il primo gruppo, cioè le opere latine, sono per la grande maggioranza orazioni e discorsi tenuti in occasioni ufficiali. Il tono in essi prevalente privilegia una volta di più la guerra contro il nemico comune o in via preliminare l'unione dei principi cristiani per lo stesso obiettivo. Anche di questi testi, insomma, va sottolineata l'intensa coloritura politica. Peraltro, a partire da essi, sono ricostruibili più i miti dell'Europa cinquecentesca che non l'articolarsi delle conoscenze su di un altro popolo. In conclusione, le opere meno legate a schemi fissi della tradizione europea si concentrano nell'ultimo gruppo, opere volgari, come i trattatelli di Paolo Giovio, di Andrea Cambini, i libri di Benedetto Ramberti e di Luigi Bassano, i trattati del Menavino o i viaggi fatti da Vinesia alla Tana e altri ancora. Un insieme eterogeneo, ma testi spesso basati su profonde esperienze personali. Il Bassano e il Menavino vissero a lungo tra i turchi come schiavi, che denotano una rilevante comprensione di quella civiltà. Per finire, poche notizie sulla distribuzione editoriale. Premesso che non è possibile valutare con sufficiente precisione i dati, sia per l'incompletezza del censimento, sia perché 80 edizioni, tutte stampe popolari sui turchi, sono prive di note tipografiche, dunque non sono attribuibili a una città o un'altra. Venezia si ritaglia comunque la maggior quota del mercato per quanto riguarda i libri sui turchi, 56 edizioni, ma la presenza dell'editoria romana in questo settore è quasi altrettanto significativa, 47 edizioni. Il primato di Venezia è di nuovo assoluto per i testi sugli altri paesi, Africa, Estremo Oriente, Nord, Europa, considerati nel loro complesso. 62 edizioni contro le 36 di Roma, anche qui il secondo centro in ordine di importanza. Se a questi dati paragoniamo quelli relativi alla produzione di testi sul Nuovo Mondo, registreremo non solo la minore incidenza di questi ultimi sul piano quantitativo, ma anche la loro maggiore concentrazione geografica. I libri dedicati al mondo turco risultano prodotti in ben 15 diversi luoghi, tra cui città minori come Lucca e Pesaro. Da segnalare in particolare il caso di Bologna, dove risultano pubblicati due soli testi sul Nuovo Mondo, mentre si hanno 19 edizioni relative ai turchi e altre 9 su altri paesi. Sembra insomma che nell'intricata foresta della letteratura geografica gli alberi americani siano stati, almeno in questo primo Cinquecento, assai meno appariscenti delle piante orientali. C'è da chiedersi che effetti abbia sortito la prevalente attenzione che il mondo editoriale rivolge in direzione dell'Asia e dunque ad atteggiamenti e schemi culturali di consolidata tradizione. Quali livelli di distinzione e precisazione sul piano geografico ed etnologico erano possibili per gli uomini del Cinquecento? Anche se culturalmente attrezzati e prescindendo dal posto non prioritario che alla letteratura geografica nel suo complesso è attribuibile nelle gerarchie della cultura rinascimentale, essi appaiono condizionati nelle loro reazioni dal forte rumore di fondo riconducibile all'Oriente. Un ruolo secondario per il complesso delle scoperte lo rivendicava apertamente nel 1501 l'ambasciatore veneziano a Lisbona, Pietro Pasqualigo, di fronte a un interlocutore d'eccezione come re Emanuele di Portogallo. Il senso della sua orazione, edita a Venezia in quello stesso anno, si risolve in una scelta cruciale: aderire con Venezia e la cristianità tutta alla comune impresa contro i turchi, lasciando da parte la sorprendente novità di un alterarum terrarum orbem, dal momento che pulcrum quidem est nova litora, novas terras exploravisse, sed multo pulcrius commune incendium restinguere. I nuovi mondi sono dunque troppo estranei e lontani. Che l'ambasciatore mirasse ad ottenere, oltre l'impegno concreto del Portogallo nella lotta contro i turchi, anche una minore attenzione alle terre delle spezie, punto dolente per il mercato veneziano, è cosa ovvia. Resta che l'alternativa potesse essere istituita in quei termini, secondo moduli retorici, propri, come ha scritto Dionisotti, della letteratura umanistica di 30 o 40 anni innanzi. Né appare diversamente orientato Giovanni Antonio Flaminio, nell'orazione scritta in occasione dell'incoronazione imperiale di Carlo V, pubblicata a Bologna nel 31. Una lunga, martellante esortazione a intraprendere finalmente l'impresa troppo a lungo trascurata contro molestissimus hostis, quotidie audacior, delle terre americane, neppure una parola. Non solo il Nuovo Mondo restava pervicacemente estraneo alle cure politiche quotidiane europee. Certi segnali ne sottolineano, come dire, l'appartenenza ad una dimensione vaga, irreale. Un opuscolo, è francese, non italiano, del 1519, si dichiara stampato «En chez nous, pays neuf trouvé nommé Utopia», l'opera del Mori apparsa a Parigi 2 anni prima. È interessante rilevare che il bersaglio polemico di questo opuscolo è l'annunciata decima prevista per rendere possibile ancora una volta la spedizione contro i turchi. L'umanista padovano Lazzaro Bonamico, in una lettera a Damiano di Goisch del 1539, aveva esaltato il connubio tra stampa e scoperte. Entrambe le due grandissime realizzazioni degli uomini contemporanei, e dunque esortava Damiano di Goisch a servirsi della stampa per narrare le scoperte dei suoi compatrioti. Ma oggi questo rapporto tra stampa e scoperte ci appare più problematico, soprattutto per gli equivoci e fraintendimenti di cui spesso l'editoria ha rivestito il Nuovo Mondo e che hanno pesato a lungo sul suo inserimento nella cultura europea. Non intendo certo riferirmi agli errori materiali. Però Leonardo Olski ha sottolineato da tempo come la prima edizione milanese dei Paesi Nuovamente Retrovati, un'edizione del 1508, si ornasse nel frontespizio di una xilografia utilizzata in precedenza e poi ancora successivamente in varie edizioni del libro di Mandeville. C'è una xilografia che ha a che fare, che mostra scenari orientali, che viene utilizzata per l'opera in cui viene annunciata la scoperta del Nuovo Mondo da parte di Vespucci. Le stesse interferenze tra mondo orientale e terre nuove si avvertono nel brano dedicato alle scoperte colombiane dal Supplementum Chronicarum di Filippo Foresti da Bergamo, interessante soprattutto per il contesto in cui queste scoperte vengono collocate. Ferdinando adunque, pigliata la granata, a ciò che i suoi armigeri robustissimi per troppo riposo non amarcessero, a Cristofano Colombo, capitaneo della sua armata, che con molti soldati subito dalle isole Gade verso Oriente navigasse, comandò, a ciò che agli orientali dimostrasse quale forza avessero gli occidentali. Da questo punto in poi il testo prosegue parafrasando una delle edizioni della prima lettera di Colombo. A parte la stretta relazione istituita tra presa di Granada e la spedizione colombiana, risulta qui interessante la presentazione della scoperta dell'America nei tradizionali termini della contrapposizione tra Oriente ed Occidente, il tutto in un testo, il Supplementum, a vastissima diffusione anche popolare. Per molti decenni dopo il 1492, insomma, la conclamata novità delle terre occidentali resta un motto il cui senso viene colto a partire dai miti europei. È con grande lentezza che la somma dei dati raccolti si tradurrà. Gli editori, i maggiori in particolare, sono riluttanti a farsi coinvolgere nella diffusione delle notizie disponibili. Altre sono le strade da loro privilegiate. La letteratura geografica è quasi assente dal catalogo aldino. Discorso analogo, almeno fino alla pubblicazione delle navigazioni, vale per la produzione dei giunti. È noto, d'altra parte, il lungo intervento dedicato da Aldo Manuzio all'inopinato allargamento del mondo e alle sue conseguenze. Lo si trova nella dedica all'opera Omnia di Platone del 1513, sede della massima rilevanza, perché il destinatario di questa dedica è il nuovo Papa Leone X, ma nel clima generale di auspicato rinnovamento della Chiesa non c'è da stupirsi se le nuove terre e i nuovi popoli suscitavano in Aldo preoccupazioni di indole eminentemente spirituale, più che conoscitiva, più che quesiti di ordine geografico o naturale. Ecco, nell'ultima parte io esaminavo più da vicino la funzione di un personaggio centrale per questo tipo di produzione, come è appunto Giovanni Battista Ramusio. Centrale sia perché la sua opera, le sue navigazioni e viaggi rappresentano in qualche modo il punto d'arrivo di tutto questo, di tutta questa produzione editoriale della prima metà del secolo. È centrale anche perché egli agisce in un luogo come Venezia, che, come mostrano i dati, è la capitale dell'editoria e in particolare la capitale dell'editoria di tipo geografico e sulle scoperte. Ecco, Giovan Battista Ramusio è un personaggio di cui, anche sulla scorta di alcuni documenti trovati all'archivio di Stato di Venezia, è un personaggio a cui va imputata, e quanto cerco di dimostrare in questa ultima parte della mia relazione, vanno imputate altre due opere, in particolare due opere importanti, due opere di rilievo, perché sono opere che rispettivamente nel 1534 e nel 1536 mettono a disposizione dei lettori notizie, diciamo le migliori notizie disponibili all'epoca sul Nuovo Mondo, comunque sui viaggi di scoperta. La prima è il sumario generale delle Indie occidentali, in cui sono raccolti gli scritti di Gonzalo de Oviedo e di Pietro Martire di Anghiera. La seconda, e in particolare la mia analisi andava a proposito di questa opera, è il viaggio fatto dagli spagnoli attorno al mondo. Mi preme dire questo, mi preme attribuire, è interessante, credo, attribuire con qualche fondamento maggiore che non le ipotesi che pure sono state fatte in questo senso, attribuire queste opere al Ramusio, perché documentano l'estendersi del suo interesse su questi temi fino ad anni molto precedenti, quelli in cui le navigazioni e viaggi sono comparse. In particolare risulta da questi documenti un gruppo di lavoro, l'esistenza di una serie di relazioni tra persone che lavorano, che sono interessate a questi argomenti, che comprendono, oltre a Ramusio, un personaggio come il Giunti, che è non solo l'editore, cioè l'ultimo, il punto di arrivo del processo editoriale, colui che in qualche modo prende il manoscritto e lo manda alle stampe, ma è probabilmente legato da un rapporto di collaborazione molto più stretto che si realizza nella procurare a Ramusio anche i materiali su cui condurre il lavoro. Uno di questi documenti è una richiesta di privilegio per opere da pubblicare. All'interno è del gennaio del 1536 e in questo documento si richiede il privilegio di stampa per un'opera, generale storia delle Indie occidentali di Oviedo, che era stata pubblicata tre mesi prima a Siviglia. Dunque ci sono tempi molto stretti in cui queste opere vengono procurate e vengono messe a disposizione del Ramusio e dei Giunti anche. attraverso una serie di passaggi abbastanza complessa che qui non sto comunque a spiegare, credo di essere riuscito a stabilire in maniera certa la funzione di curatore del Ramus, di colui che mette assieme materialmente, che cura la pubblicazione di questo testo del 1536, Il viaggio degli spagnoli attorno al mondo, che presenta al pubblico due relazioni sull'impresa magellanica, il testo di Pigafetta e un testo che peraltro aveva già circolato in Europa, il testo di Massimiliano Transilvano, mentre invece il testo di Pigafetta è quasi sconosciuto. Infine, un altro documento è un'altra richiesta di privilegio avanzata dai Giunti, dagli editori, dalla casa editoriale dei Giunti, nel 1543, che riguarda la pubblicazione delle navigazioni e viaggi. Dunque, già nel 1543, 7 anni prima della pubblicazione del primo volume, si chiede il privilegio per una serie di materiali che sono misti, cioè sono materiali che poi confluiranno in due diversi tomi dell'opera ramusiana, nel primo e nel secondo. Il privilegio richiesto per l'opera di Giovanni Leone, La descrizione dell'Africa, il viaggio di Annone in cartaginese, il viaggio di Alvise da Cadamosto, il viaggio all'isola di Saint-Thomé e poi, questi sono materiali che andranno nel secondo volume, il viaggio di Messer Pietro Querini e di Cristoforo Fioravanti sotto la Tramontana, il viaggio di Ariano Greco e la descrizione del paese dei Tartari di Ippocrate Medico. E dunque si potrebbe avanzare l'ipotesi di un progetto nel 1543 di pubblicazione di una opera diversa da quella che saranno poi le navigazioni del 1550. Un progetto che comunque non andò in porto, nel 1543 non uscì nulla, la pubblicazione viene rimandata. Tre anni dopo si trova comunque ancora traccia, si trova ancora l'eco di questo progetto editoriale, si trova l'eco in una lettera di un segretario dell'ambasciatore spagnolo a Venezia, che era Diego Hurtado de Mendoza, che scrive, adesso che scrive, scrivendo a casa, scrivendo in Spagna, adesso si stamperà qui a Venezia un gran volume delle cose dell'Africa, composto per uno nato a Granada che conosce molto bene quelle regioni, benché l'autore lo abbia scritto in un pessimo latino, oppure lo hanno tradotto in italiano, e dice Don Diego che questo è un gran bel libro. Questo fatto, fra l'altro, documenta l'esistenza in maniera una volta tanto certa, anche qui, l'esistenza di rapporti diretti tra Diego de Mendoza e il Ramusio, che voglio dire, sono cose delicate perché il Ramusio è un segretario veneziano, fa parte della burocrazia e non sono visti di buon occhio i rapporti tra membri della burocrazia e ambasciatori di altri paesi. E Diego de Mendoza probabilmente ha procurato a Ramusio poi materiali stampati nel terzo volume. Ecco, comunque c'è questo progetto di cui si continua a sentir parlare. Progetto, ripeto, non andato in porto, probabilmente perché a Ramusio arrivò altro lavoro, arrivarono altri materiali che, come dire, incidevano tipo di progetto che lui fino a quel momento aveva messo a fuoco, costringendolo a mutarlo. Ramusio dovrà lavorare su, per esempio, il libro di Marco Polo. Il libro di Marco Polo che nella prefazione al viaggio degli spagnoli intorno al mondo del 1536, lui sbrigava in poche parole sprezzanti, accomunandolo al libro di Mandeville. Dice, noi sappiamo che questi libri, il libro di Mandeville, di Giovanni da Mandavilla, il libro di Marco Polo, ci raccontano delle frottole, noi invece, noi moderni, abbiamo ben altra conoscenza di questi di queste terre, di questi paesi. E 14 anni dopo il libro di Marco Polo, come dire, richiama la sua attenzione in maniera molto diversa. Dice lui stesso perché? Perché ha potuto verificarne l'attendibilità tramite il libro di Abulfida, ed è qui che rientra in ballo Guillaume Postel, perché il libro di Abulfida è arrivato in mano a Ramusio proprio per questo tramite. Bene, così concludo. Per questa ampia relazione, che copre però una ricerca ancora più ampia e dettagliata, su cui quindi potremo fargli domande e discutere. Io penso che però a questo punto l'offerta più gradita sarebbe quella di una pausa. Sì. È previsto nei rituali un quarto d'ora, un po' ipocrita, 20 minuti. Io ho avuto un'impressione di una relazione che ha dovuto sacrificare la seconda parte, e allora proverei a fare delle domande per... cioè comincerei con una domanda io, perché ho avuto l'impressione che la tua relazione fosse costituita di una prima parte di studio quantitativo della produzione editoriale italiana e quindi in particolare veneziana, per ristabilire i rapporti di interesse tra Est, Ovest e altre direzioni, e di una seconda parte in cui, dopo avere scoperto, confermando un'impressione, ma che valeva la pena confermare appunto, dopo avere scoperto che l'interesse per il nuovo mondo è un interesse marginale, ristretto, tutto sommato fatto di piccoli ambienti, forse di pochi piccoli ambienti isolati, la tua analisi doveva affrontare la figura centrale di uno di questi ambienti, e quindi affrontare Giambattista Ramusio e vedere in che modo si arriva alle navigazioni e viaggi. Di questa seconda parte tu ci hai fornito due o tre novità nella produzione editoriale di Ramusio, e hai fatto solo degli accenni sul... Ecco, non so se questa impressione, se questo riassunto può corrispondere a quello che tu avevi in mente, e questa è una prima domanda. Ecco, una osservazione che volevo fare è quella che riguarda la citazione del Doni da cui sei partito, che mi pare abbia una importanza reale. Cioè il Doni dice, il brano che tu hai letto è bello, Doni dice: i libri sono fatti di libri. C'è questa immagine della ruota di parole, i libri nascono dai libri. Allora, mare appunto, e dall'altro i viaggi per via di terra. Ora, questa letteratura esiste, preesiste alla scoperta dell'America, e quindi è probabile che ci aiuti anche a capire in che modo il nuovo si travasa negli otri vecchi, o si trova strade nuove. E forse ci può anche aiutare a risolvere quel problema che tu hai accennato di come trattare la letteratura di invenzione, la letteratura fantastica. Io direi, i viaggi del Mandavilla sono un testo che circola come altri viaggi e che può essere letto, a prescindere dal suo carattere fantastico, nell'ambito di un genere letterario che ha trovato i suoi lettori, che ha scoperto il suo pubblico, perché il problema della ricezione è appunto questo del rapporto fra editore e pubblico, fra libro, fra testo scritto e testo letto, e chi lo legge, a chi ci si dirige. quindi questa era una proposta, diciamo, di esplicitare più apertamente la questione del genere letterario, per vedere se questo ci aiuta appunto a tagliare meglio il rapporto fra invenzione e realtà nella letteratura di viaggio. E per questa via forse si riesce anche a seguire meglio perlomeno l'evoluzione della letteratura relativa all'Oriente, che è quella che ha un rapporto stabile preesistente con col pubblico. Penso per esempio a Ignazio di Loyola, quando arriva a Venezia per imbarcarsi per andare a Gerusalemme, non si sa se ha comprato un itinerario verso Gerusalemme, ma è molto probabile che ne conoscesse qualcuno. Cioè, qui siamo di fronte ad un libro che ha una funzione reale, no? Mentre i viaggi verso l'America ancora non hanno, in Italia almeno, un pubblico di utenti. Nel 600 per esempio è normale trovare dei testi che insegnano come si fa a partire da una città italiana o tedesca per andare fino in America, ma nel 500 io non ne conosco di testi nati esclusivamente come testi di istruzione. Ecco, quindi il rapporto, diciamo, il problema della ricezione, il problema della coscienza della ricezione che Reinhardt poneva, ci impone davanti alla letteratura di viaggio, mi sembra, di scoprire questo legame fra autore e pubblico, tra editore e pubblico, e allora poi ci pone anche il problema di che cosa sia questa letteratura veneziana sull'America, che nasce senza avere un pubblico, che nasce a quanto pare, e mi pare che la tua relazione andasse in questo senso, che nasce come progetto di un gruppo ristretto. E allora naturalmente viene in mente una cosa che è talmente nota che tu non l'hai detta, ma che forse va ricordata, e cioè che nel 1513 viene questo Libellus ad Leonem Decimum, che è un documento che rimane negli archivi, ma che poi quando è stato pubblicato ci ha rivelato gli orizzonti geografici, politici di membri della classe dirigente veneziana, e arriva poi anche questa edizione di Platone, curata da Manuzio, con questa dedica a Leone X. Cioè, vuol dire, il progetto americano, l'attenzione verso Occidente, sembra in contrasto con la tradizione veneziana, ma sembra anche nascere in un momento abbastanza determinato, cioè in un momento in cui, finito il terribile pontificato di Giulio II col nuovo Papa Mediceo, gli sforzi della propaganda veneziana vanno nella direzione di dire al Papa: beh, è tempo di lanciare una grande opera di evangelizzazione del nuovo mondo, disarmare i principi cristiani e invece organizzare la grande crociata. Cioè, lo dico in maniera un po' semplificatoria e grossolana, però quello che colpisce nel Libellus ad Leonem Decimum è la vastità dell'orizzonte geografico, è la maturità del progetto, la grandezza, l'ampiezza di orizzonti, ma anche il suo essere d'accordo con gli orientamenti, con le esigenze, con le necessità di Venezia dopo la terribile serie di scontri appunto con Giulio II, e il suo essere d'accordo anche con gli orizzonti politici, quindi ecco, ma ho parlato troppo, come fanno sempre gli italiani. Ma dunque, il problema del genere letterario, di come nasce questo genere letterario. Certo, tu chiudevi facendo riferimento al Libellus, dunque a Vincenzo Querini e Tommaso Giustiniani, i quali sono veneziani che fanno parte di un circuito all'interno del quale certo può essere fatto ricadere anche Ramusio. Sono in contatto questi due personaggi con Navagero, sono in contatto con Pietro Bembo, eccetera. Dunque sono personaggi che appartengono all'alta cultura veneziana, così come anche Giovanni Battista Ramusio appartiene all'alta cultura veneziana. io scrivevo appunto parlando di, qui nella parte che non ho riferito, parlando di Ramusio, che lui arriva nel momento in cui decide di mettersi a realizzare questa opera, questa grande opera che sono le Navigazioni, come dire, arriva a contatto di un genere letterario che fino ad allora è stato frequentato e ha prodotto risultati abbastanza umili. Facevo prima riferimento a una serie di scritti nati lontano da studi profondi, prodotti da uomini che non fanno professione di studio. Ecco, Giovanni Battista Ramusio arriva e in qualche modo, utilizzando questi materiali, nobilita il genere, gli dà una base molto più, gli fornisce delle radici culturali, andando soprattutto a documentarsi sulla cultura classica, che poi sono state le sue origini, no? Quando Ramusio lavorava a stretto contatto di gomito con Navagero per Aldo Manuzio, insomma. Ecco, dunque, in un certo senso, credo che, come dire, questa letteratura proprio a Venezia si sia abbia reso se stessa più, questo genere letterario, questa serie di materiali relativi ai viaggi, abbia proprio nell'ambiente veneziano reso se stessa più complessa, per opera del lavoro principalmente appunto di quest'uomo, di Ramusio. Ma un altro personaggio che è poco conosciuto, anzi non è conosciuto per nulla, e che però bisogna ricordare nell'opera di, come dire, fabbricazione di questo genere letterario, è Alessandro Zorzi. Alessandro Zorzi, di cui Almagià ha scritto molti, molti anni fa, ipotizzando dei contatti con Giovan Battista Ramusio. Ebbene, questi contatti sono rimasti allo stato di ipotesi. Su Alessandro Zorzi si continua a non sapere nulla, però è un personaggio che ha ininterrottamente, sono i termini ricostruiti da Roberto Almagià, tra il 1507 e il 1535-36, ininterrottamente lavorato su materiali che provengono, che riescono a documentarsi su altri mondi. Cioè, come dire, nell'ambiente veneziano un passaggio di testimone a un certo punto da Alessandro Zorzi a Giovan Battista Ramusio. Purtroppo di Alessandro Zorzi si sa nulla, non si sa soprattutto, almeno non è a mia conoscenza, quali sono gli ambienti intellettuali che Alessandro Zorzi frequentava. Si sa solo che lui girava per Venezia e andava a intervistare i marinai portoghesi o i frati etiopi che a Venezia arrivavano, non si sa altro, insomma. E questo è, come dire, un capitolo secondo me molto rilevante da studiare, perché è l'antefatto del lavoro ramusiano, rappresenta in qualche modo l'antefatto. Ecco, dunque, per quanto riguarda la costruzione di questo problema, di questo genere letterario che si costruisce, che riesce a raggiungere dei confini più certi, o più stabili, più definiti. Io credo che una grossa parte, un grosso lavoro sia stato svolto appunto da Ramusio, con l'opera con le navigazioni e viaggi, in cui, come dire, ha dotato, ha nobilitato, se si vuole, questo genere letterario con, ampliandone le prospettive. Non so se questo... Certo, cioè lei mi chiede quali sono i confini. Dunque, se lei mi chiede gli strumenti di cui io mi sono servito, beh, per quanto riguarda l'America, credo che gli strumenti bibliografici a disposizione siano abbastanza esaustivi. Da una parte, vabbè, da Harris, la biblioteca americana vetustissima, fino al lavoro di Berchet del 1896, e poi ai più recenti, Sebin, e all'ultimo, che è European Americana, pubblicata dalla John Carter Brown Library. Mi pare che questo rappresenti un censimento, diciamo, i dati che i libri che vengono registrati da queste opere mi pare che consentano non di essere sicuri che questo è il totale della produzione, non consentono di essere sicuri perché io stesso ho aggiunto ai dati forniti da European Americana, che è, diciamo, un po' quella che riassume tutti gli altri, ho aggiunto poche, ma due edizioni le ho aggiunte, che non sono... però mi pare che, come dire, il campione sia rappresentativo. Ecco, dunque certo, estrapolare dei dati su questa base può essere un terreno scivoloso, però credo che, come dire, un secolo di studi americanistici non abbia lasciato molto fuori da questo panorama, almeno questa è la mia impressione. Girolamo, prego, prego. Beh, per la verità non ho parlato solo di testi turchi e americani, ma anche di altri testi, cioè in questa, diciamo, il numero delle edizioni che ho censito, sotto la dizione altri paesi sono compresi anche testi su Africa, paesi settentrionali, Estremo Oriente, e dunque anche queste altre zone del mondo. Cioè ho cercato di fornire un panorama esauriente della produzione relativa agli altri mondi. Non so se questo è... sono... Beh, io ho considerato insieme Asia, Africa, paesi settentrionali e Sarmazia, che sono, come dire, dimensioni nuove anche queste ultime, no? Che nel Cinquecento vengono percepite, e sono 137 edizioni. Tolto il settentrione e la Sarmazia, ne rimarranno 110, 115. 233 sulla Turchia. E 110 più o meno su Asia e Africa. Era sì. Girolamo? Sì, citavo da Andrea Pascoligo a... sì, sì. Già da prima, sì, certo. Diciamo, è una produzione molto diversificata al suo interno, no? Cioè queste edizioni veneziane, sono 34 edizioni, in realtà insomma, non sono tutte rivolte allo stesso pubblico, no? All'interno troviamo trattati come Le navigazioni e i viaggi, tre volumi di 400 carte l'uno, di 800 pagine l'uno, insomma, il che significa chiaramente indirizzarsi in direzione di un certo pubblico. A proposito di questo, produrre un'opera di quel tipo, di quel costo anche, beh, qui credo di sì, credo che ci sia stato un elemento di scommessa in qualche modo. La prima volta che in Italia si percorre una strada di quel tipo. E dunque c'è una certa fascia di opere che sono prodotte da una elite ristretta per una elite di lettori. Altre opere sono invece di tutt'altro genere, sono opuscoli di poche carte prodotti per l'occasione che nascono e muoiono in poco tempo, no? Che si bruciano in poco tempo, nel senso che comunicano delle notizie, quasi, voglio dire, c'è quasi uno spirito giornalistico dietro, no? Bordone nel 1534 pubblica una seconda edizione del suo libro e vi aggiunge, e questo naturalmente lo scrive ben visibile nel titolo dell'opera, con aggiunta la lettera del Monte dell'Oro, perché erano notizie nuove relative al Perù questa volta, e dunque c'è un'editoria di questo tipo che si rivolge a altro pubblico, prodotta non certo da intellettuali del tipo del Ramusio, insomma. Ecco, dunque c'è questa diversificazione. E quanto al problema di questa elite che si fa carico di questo problema di cui il Ramusio fa parte, ecco, è un'elite che parte da origini intellettuali comuni, direi, o in grossa parte comuni, se ne parlava questa mattina con Marica Milanesi. Voglio dire, da una parte c'è Ramusio che è segretario della Repubblica e che frequenta in maniera molto stretta personaggi di grosso rilievo come Bembo e come Navagero. Dall'altra parte ci sono c'è questa possibilità che ha Giambattista Ramusio di come posso dire, di incontrare in ambiente veneziano e grazie alla posizione che lui occupa all'interno della burocrazia veneziana una serie di viaggiatori che, come dire, a Venezia arrivano da parti diverse, che si fermano, lavorano, e tra questi ci sono appunto i personaggi che ho citato prima, Jacob Ziegler, ci sono Guillaume Postel, che è a Venezia in diverse occasioni tra gli anni 40 e gli anni 50, c'è Damiano di Goisch, ci sono Olao Magnus e suo fratello, no? E da questi personaggi è singolare che, appunto, che ci sia tutta questa serie di persone, ciascuna delle quali può fornire a Ramusio e al Giunti qualche tassello dell'opera complessiva, insomma. Sì. Gli opuscoletti, tu intendi questa? Sì. Dunque, per quanto riguarda gli opuscoletti, sul tipo, per esempio, questo non solo a Venezia, ma comunque in generale, sul tipo, per esempio, delle operette di Giuliano Dati. Giuliano Dati pubblica a più riprese opere sia relative all'America, sia relative al prete Gianni, sia relative all'Estremo Oriente, all'India, dove erano arrivati i portoghesi. Come dire, è il diffusore a livello molto popolare e in forma poetica, lui sceglie l'ottava, no? Come strumento di diffusione di queste cose. Ci sono sempre immagini, in certi casi, come in quello che ho citato, si possono seguire i percorsi di queste immagini, percorsi come appunto dal frontespizio dell'opera di Mandeville al frontespizio dell'opera di Giuliano Dati sull'America, no? Carte geografiche. Dunque, poi altre immagini compaiono per esempio nel sommario della Generale Storia delle Indie Occidentali, ma con un intento, come dire, di documentazione della realtà naturale e anche dei costumi dei popoli americani. L'opera del 1534, pubblicata appunto ad opera di Giambattista Ramusio, sono immagini che sono prese di peso dall'edizione spagnola del contributo di Oviedo. E poi c'è questa in un paio di edizioni del Cortés c'è questa carta di Tenochtitlan, di Città del Messico, che evidentemente colpisce molto soprattutto a Venezia, perché è una città costruita sull'acqua, così come Venezia è costruita sull'acqua. Ecco, altre immagini, altra cartografia, vabbè, c'è il libro di Bordone, che è un libro costruito, credo, per piacere, un bel prodotto editoriale, molto ricco di immagini, però per la stragrande maggioranza immagini di isole molto povere. Anche il Bordone pubblica però la carta di Tenochtitlan. E poi fino all'opera ramusiana, io credo, nulla più, se non mi sfugge in questo momento. Per un'associazione forse di Io consiglierei di pensare sempre. Certo. Arriva da Venezia e da avventure sue anche psicologiche e soprattutto. Si stabilisce a San Zanifolo come ragazzo del resto, come cappellano degli stranieri. A San Zanifolo un potere fuori del periodo è di tutti, credo di preoccuparlo. In questa maniera forse potrebbe essere importante diretto con abita che un certo periodo nella casa di molti minuti, gli lascia i suoi libri anche presso il problema, dà il resto dell'identità di diventarsi a Ramuzio e la scala di facciata. Ora, se no lo sto domande, chiedo correzione di storici, per la cultura religiosa del Cinquecento. A San Zanifolo si faceva di un amore o qualcosa di nuovo che era chi, se non ricordo male, San Zanifolo è una di queste istituzioni che sono legate a questo tipo di associazioni industriali. Mi è venuto in mente che ad Anversa, pochi anni dopo, mica tanti, 15 anni, anche meno, Frantelli, Cortelio, e sbagliare della cultura anche geografica del secolo sono legate poi anche a Dio Costello attraverso il dell'amore, l'altra setta, questa è diversa mentalità del carattere, una setta una di atteggiamenti, di miseria, eccetera, però tuttavia anche in un legame di tipo di Dio. Ora mi chiedevo se non si possa provare a utilizzare, credo solo che possa che ci sia anche tra le relazioni tra Costello, Luigi e Conte un aspetto, diciamo così, vale a dire, se per caso anche in questo aristotelico e comunque studioso molto razionalistico, diciamo così, di cose materiali, come è il mondo, e non ci sia uno stimolo vagamente, diciamo, religioso, non c'è più di tangere. Non sarebbe il segno di strada, vale a dire che lo studio della geografia è una parte importante di quel lavoro di istituzione del mondo intero a Cristo, che non solo fa parte dei sogni prescrittori e allucinatori di Dio Costello, ma fa anche parte dei ben diversi e ben più radicati nella realtà progetti di conversione della comunità di Gesù, la quale non a caso diventa, nella seconda metà del secolo, una dei principali produttori di geografia, nel senso di informazione, di elaborazione di informazioni, a costa, a dire, di segno, di essere stato tutta la comunità europea. Chissà forse che questo lavoro di riconduzione a Cristo del nuovo mondo, e quindi necessaria conoscenza, perché è un lavoro pratico, è un lavoro che gli uomini fanno con le loro mani, con i loro piedi, non è una idea, è il seminario che si svolge fisicamente nel mondo americano, ha bisogno di carte geografiche, ha bisogno di conoscenza dei linguaggi, dei costumi e così via. Chiedevo se chissà forse anche una parte di questo lavoro veneziano, forse che non abbia qualche lontana la radice, anche in questo bisogno di conoscere per poter dire i convertiti, i porti, i popoli restituito a Cristo il suo regno, chiudere i tempi e arrivare alla fine dei tempi. Ti ripeto solo un quanto di voler sapere che cosa ne pensi. Sul piano documentario mi pare che le navigazioni poco ci diano in questa direzione, o nulla. L'ipotesi è molto allettante, tutta da verificare. Purtroppo, ecco, voglio dire, qui come in molti altri quesiti che si possono porre a proposito di un personaggio come Ramusio, ci si scontra con questa sua reale ed effettiva, come dire, voglia di scomparire, no? E voglia di non figurare, voglia di non apparire. Lui è, estremamente ligio alla regola non scritta per cui un segretario veneziano deve stare al suo posto, il nome non deve circolare troppo fuori dalle aule di Palazzo Ducale dove lavora, no? E, insomma, dire, la scelta dell'anonimato per la sua opera, no? Le navigazioni escono anonime, è solo Tommaso Giunti quando pubblica l'ultimo volume dopo la morte di Giovan Battista Ramusio che in una avvertenza ai lettori scrive: quest'opera è di quello studioso che eccetera, con anni e anni di lavoro, no? Dunque, ecco, è una scelta che quella dell'anonimato, che non riguarda solo il nome, riguarda anche tutto quello che fa parte purtroppo delle sue convinzioni, delle sue soprattutto sul piano religioso, direi, ecco. L'idea che uno si può fare di Giovan Battista Ramusio attraverso i documenti pochi che di lui rimangono è quella di un personaggio molto ben inserito in questa Venezia della prima metà del Cinquecento, molto ligio, a me ha colpito sempre molto questa frase che lui scrive in punto di morte o quasi nel suo testamento, no? Dove si proclama schiavo dello Stato veneziano. Ricordati, dice al figlio, che tu tutto quello che hai ce l'hai per virtù di questo eccellentissimo Stato di cui io sono stato servitore assiduo per 52 anni, no? E dunque è perfettamente in linea, cioè è una persona che se anche ha, non lo so, delle tentazioni, non le lascia molto trasparire, ecco, delle tentazioni che vadano al di là dell'ortodossia in qualsiasi settore, voglio dire, non le lascia, mi pare, molto trasparire. Il rapporto con Postel probabilmente è stato un rapporto di furto, non so, di fruizione, o tu pensi ad una... Tu pensi ad una collaborazione precisa? Ma c'è bisogno di arrivare a Guillaume Postel per uno studioso dei classici come lui? certo. No, certo. Se posso l'osservazione, sì, sì, di Marita Milanesi, al di là del caso Ramusio, cioè intanto mi pare che non necessariamente Ramusio poteva essere considerato eterodosso se nutriva desideri di conversione di questo tipo, nel senso che la cultura... Sì, no, non ci si può stupire se non lo si trova negli atti dell'Inquisizione, perché questo tipo di aspirazioni nutrite di profezie erano molto comuni. Si parlava poc'anzi di Ignazio di Loyola, Ignazio prima di progettare il viaggio per Gerusalemme, se non ricordo male, va a trovare appunto la beata Pedraita, e quindi diciamo queste figure femminili che hanno queste visioni, che alimentano questi progetti, si trovano poi diffusamente in ambienti che hanno caratteri esoterici, che vanno in cerca di sapienze che sfuggono ai più, no? Di rivelazioni sepolte. Ecco, quindi diciamo questa ipotesi, stavo pensando che purtroppo non abbiamo con noi Giuliano Liozzi, a cui pensavo moltissimo fin dall'organizzazione di queste giornate, con cui c'era questa discussione sulla lettura del significato di questo tipo di millenarismo e contesto di rivelazioni e di progetti religiosi che circonda tutta questa letteratura. Mi dispiace non poter continuare con lui questa discussione. Però ecco, credo che il discorso sia vero e vada anche allargato, perché pensavo che non vale soltanto, perché si potrebbe anche al limite pensare che valga per la letteratura veneziana verso l'America, ma non verso la Turchia. In realtà poi, se uno va a vedere la vita e i costumi dei turchi del Menavino o altri testi sui turchi stampati a Venezia e diffusi non solo da Venezia, in grandissima quantità trova la profezia, no? Trova molto diffusa e contrariamente riapparente questa profezia sul modo in cui i turchi si convertiranno. Ecco, quindi questo era proprio una specie di elemento aggiuntivo necessario perfino a livello di grande mercato per un tema così facile come i libri sulla Turchia. Ecco, invece, sì. Non è di base con i posteri, perché si sono ben informato, posteri non è contento con una profezia, ma fa una combinazione di tutte le profezie con il loro esercito. Sì, questo punto di vista la profezia si unisce alla propaganda, questo sì, questa è la differenza di Postel. Non se aspettare la futura conversione di Turchia, sì, quel mondo va in attività, promozione, sì, attiva di questo processo, come ci sono, sì, primo orientalismo. Sì, questo è vero, questo si trova, questa promozione attiva del cambiamento, unita in maniera invisibile. Penso che questa è una differenza che è in favore della... Sì. Cioè che ci sia una radice posteliana, che ci sia una presenza di Postel dietro... questo gruppo veneziano anche? Sì, sì. Cioè questo è la causa della... Sì. Sì. Questo, d'altra parte, qui ci sono degli... forse ci sia semplicemente una forte concomitanza di tempi. Io penso che questo è l'ambiente utilizzato, tutto il personaggio che è in testa e pensante, ma che si siano a un certo punto trovati d'accordo su un tema molto rilevante. E quello della promozione attiva della conversione. Sì. Aspetta di chiaro. Poi non si può dire che siamo anche avanzati, perché non c'è più di più, però si immagina. D'altra parte questo era un tema che apparteneva, io pensavo che apparteneva a una letteratura assai più ampia, pensavo alle lettere delle gesta della Compagnia di Gesù. Ora, in una edizione che adesso non ricordo se è del 65 o del 66, si accenna proprio a questo rapporto fra le fra l'attività dei gesuiti e il passo di Isaia, dei messaggeri volanti, e si chiosa questo dicendo che si tratta della realizzazione della profezia di Isaia che avviene attraverso i gesuiti. Ora, questo testo è una lettera che racconta le gesta dei gesuiti, quindi è un'informazione ed è, diciamo, siamo agli inizi della fortuna di questa letteratura geografica di tipo diverso, e poi promuove questa attività perché è fatta per propagandarla e per raccogliere nuovi missionari, e per di più per propagandarla si serve della profezia, quindi ci sono tutti gli elementi. Questo non toglierà che a un certo punto si tagli via l'aspetto profetico, ma anche con danni. Questa lettera infatti finisce poi tra i testi proibiti quando l'aria cambia e le profezie non sono più accolte. Però in questa fase sono molto, molto legati tra di loro. La propaganda, l'interpretazione profetico-millenaristica e la descrizione dell'attività. Perfino appunto in questa letteratura che è a sua volta un genere letterario, stavo di nuovo tornando al discorso del genere letterario che risorge dopo Ramusio e che fa sembrare ancora più un masso erratico queste navigazioni e viaggi, o no? Perché penso appunto che ci sono prima le lettere, c'è questa straordinaria fortuna della lettera, le lettere di Colombo, le lettere di Vespucci, poi c'è la cultura umanistica, italiana in particolare, che si serve delle lettere volgari come strumento di autopromozione, le lettere dell'Aretino, le raccolte di lettere che dilagano fra il 1540 e il 1550-60, e poi la letteratura geografica che prende decisamente la via della lettera, lettere epistole indice, lettere non solo, ma in Italia e in area cattolica, però mi sembrano decisamente preponderanti. Però il rapporto col pubblico, se il libro viene fatto per il pubblico, abbiamo fatto una distinzione all'inizio, no, tra i libri che sono fatti per essere venduti e i libri che sono invece un momento di promozione, di propaganda, destinati quindi a interlocutori mirati, penso Platone per esempio, il Platone del Manuse. Ecco, con questa distinzione da una parte è certo Acosta e dall'altra però la letteratura geografica di larghissimo consumo è quella di brevi testi, delle lettere indice, delle loro compilazioni, ritagli, sommatorie, vedo... No, mi ricordavo che la proprietà che stella Possolino distingueva Acosta per i missionari e le lettere indice da dare al pubblico comune. Quindi distingueva per le lettere di pubblico o per testi. Anche sì, infatti i discorsi si intrecciano. Sì, Postella era poi è stato anche gesuita. Sì, Postella era la cosa. Grazie. Non credo di essere in grado di dirle molto più di quello che ho detto prima, nel senso che per quello che riguarda la produzione romana io mi sono limitato a raccogliere i dati sulla produzione dei libri, ma non credo di avere molto più da dire. Ecco, mi ricordo che il Principio da Viterbo è stato studiato da O'Malley, se non ricordo male, diciamo che in lui c'è lui nell'ambiente che appunto si raccoglie attorno a di nuovo bisogna fare i nomi di Vincenzo Perini e Giustiniani che scrivono questo Libellus, dove c'è questa produzione in cui l'attenzione all'evangelizzazione in qualche modo è molto presente, è un caposaldo delle argomentazioni che vengono fatte, però non riesco a dare altre informazioni. Come straniero sono ignorante della storia della stampa italiana e per queste ragioni sono interessato di un tentativo di valutazione sui risultati nell'ambito della storia della stampa italiana. Più concreto, la distribuzione geografica delle pubblicazioni, e questa normale o straordinaria, evidenzia il primo centro di stampa Roma, il secondo Firenze, il terzo Milano, il quarto Bologna, il quinto. Questo è stato normale? Questo direi di sì. Per quanto mi consta. Sì. L'altra questione forse più difficile di rispondere. Che il numero di pubblicazioni in generale è lo stesso periodo e che il numero, per esempio, di pubblicazioni di carattere ecclesiastico, di testi classici, per comparare. Per avere un termine di paragone, non sono in grado di fornirlo. Orientativa della città, in caso di Venezia non esiste un studio sulla stampa di Venezia? Sì, però diviso, distinto per generi, non mi pare. Che sia possibile, come dire, fare una classifica dei generi. Ecco, questo così a naso posso dire che certamente la produzione di testi religiosi a Venezia è certamente molto superiore a questo tipo, ecco, però non sono in grado, non mi avventuro a fornire il giro. C'è la bibliografia di Stadio su Strasburgo di Andrea Bucciardesma, cosa che è una cosa semplice. A me non viene in mente, a dire che non è stato fatto niente di simile. Ci sono molti annali tipografici dei diversi editori che però rappresentano una parte solo degli editori, per cui è difficile fornire dei termini di paragone. Nel primo libro di testi che è sull'inquisizione veneziana ci sono buone informazioni sulla tradizione. Ora non vorrei dire una sorpresa, magari di ricordare che siano circa 10.000 stampe a Venezia nel corso del 500. Sì, lo fornisce questi stampi. Come numero complessivo di edizioni stimato e molto molto, però la gran parte è stata religiosa, di cui proprio i giunti erano gli stessi che stavano nella navigazione di anni. Io chiedo una curiosità, lato sono, non so, un testo che ha avuto molta fortuna in Italia, soprattutto nei primi anni dopo la scoperta, è la lettera di Cristoforo, l'epistola, epistola de insulis indie supra gangem nuper inventis. Lettera di Colombo inviata, una delle poche pervenuteci, inviata in Spagna, suoi protettori, tradotta in latino da un letterato che è Leandro di Cosco, da una edizione spagnola. Cioè, la lettera viene pubblicata e poi dopo viene pubblicata in Spagna, a Barcellona, e poi viene tradotta molte volte in Italia. Poi ancora il Mundus Novus, che viene pubblicato per la prima volta fuori d'Italia a Parigi, probabilmente nel 1503, e poi subito negli anni successivi viene pubblicato in Italia. E poi ancora mi pare la lettera di Juan Díaz dallo Yucatan, uno di questi testi. La lettera di Massimiliano Transilvano, l'epistola di Admirabile Novissima Hispanorum Navigationem. E poi ancora Cortés, la preclara narrazione di Cortés appare per la prima volta a Norimberga, e poi successivamente, nello stesso anno 1524, in Italia. Ci sono traduzioni di testi diversi, che sono per esempio i testi di Anghiera, di Pietro Martire d'Anghiera e di Oviedo, che appaiono prima in Spagna e poi vengono abbastanza, con sufficiente tempismo, vengono proposti anche al pubblico italiano. Ci direi un numero di casi che a me premeva di sottolineare che non c'è una forte dipendenza dell'editoria italiana dall'editoria di altri paesi in ordine al reperimento di questi testi, cioè per tutto questo periodo c'è una sufficiente capacità di procurarsi materiali da pubblicare, materiali che sono molto originali, che dunque vengono pubblicati per la prima volta in Italia. Posso aggiungere una cosa ancora? Mi pare che questa tua osservazione suggerisce di verificare la categoria dei mediatori culturali, nel senso che Ramusio è certamente un mediatore, no? Diventa editore, ma è uno che procura testi, per tutta la vita non fa che procurare testi, fa procurare documenti, lavora per Pietro Bembo, ha una rete di committenti. Vedo che la Marica Milanesi storce la testa, ma storce il naso, ma ecco, mi pare che esista, per questa editoria di novità geografiche, il problema di identificare i mediatori. Ora, questo mondo veneziano ha una serie di mediatori, penso alla figura di Navagero, sono in genere gli ambasciatori, cioè sono in genere gli osservatori nel mondo spagnolo che procurano testi, mandano documenti. Qui sarebbe interessante recuperare, tu lo farai probabilmente nel testo della relazione, ma recuperare tutte le tracce di questo tipo di raccolta di testi. perché per esempio trovare appunto la lettera di un fiorentino a Città del Messico spedita ai genitori nel 1535 tra le carte di Beccadelli. Quello è Giovanni Nicolossi. Giovanni Nicolossi. Due Nicolossi, due fratelli Nicolossi, sono ricordati nel testamento di Tommaso Giunti. Tommaso Giunti. È un tramite possibile. Ecco, ma insomma, qui c'è un'attenzione, proprio una funzione mediatrice nella raccolta di testimonianze, di documenti, che mette in movimento persone che sono ambasciatori, nunzi come il Beccadelli. Sì, io credo che vada rivalutata anche molto però nel caso specifico dell'ambiente veneziano degli anni 30, 40 e 50, una funzione, cioè questi giunti che hanno un'impresa editoriale di vastissime proporzioni, che hanno contatti con diretti e abbastanza frequenti di commercio e con la Spagna, con la Francia, cioè si avvalgono di contatti in loco. Mi pare che questo, voglio dire, è la strada più semplice, in un certo senso, per la, soprattutto per questo problema, il procurarsi delle novità editoriali. D'accordo, però io volevo dire una cosa un po' diversa, cioè nel caso veneziano, i tipi di mediatori che vediamo all'opera sono uomini di governo, ambasciatori, classe dirigente della Repubblica. Sì. Che si impegna, che presta una particolare attenzione alle novità che riguardano l'impero spagnolo per orientare in un certo modo la Chiesa e la politica veneziana. Cioè mi pare che ancora una volta lo shock subito da Venezia all'inizio del secolo probabilmente fa sentire la sua eco abbastanza a lungo. Cioè tu vuoi dire in direzione di una costruzione di una pace durevole, cioè stare... Forse, un'ipotesi, ecco, mi pare comunque che nel caso veneziano l'attenzione per il nuovo mondo abbia un referente politico nella classe di governo veneziano, è una banalità voi direte, ma però questo referente politico, il suo programma va decifrato, cioè non siamo davanti solo ad una produzione libraria per un ipotetico libero mercato di consumatori di libri. Siamo davanti a circoli.